6B. Ascolta e trasforma. Lei si ricorda tutto, loro si ricordano tutto. Lei si interessa di economia. Loro si interessano di economia. Lei si alza presto. Loro si alzano presto. Lei si preoccupa sempre. Loro si preoccupano sempre. Lui si addormenta tardi. Loro si addormentano tardi. Lui si siede qui. Loro si siedono qui. Lui si mette la giacca. Loro si mettono la giacca. Lui si sbaglia raramente. Loro si sbagliano raramente.